Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donelli, avete sentito della BCE, allora io mi sposto direttamente a Bruxelles. Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker apre i lavori di questi due giorni di vertice, si parlerà molto anche di Siria, ma soprattutto di Brexit, poiché il tempo passa, l'estate è passata, siamo nell'autunno e siamo ancora al punto in cui ci eravamo lasciati a giugno. Quindi Jean-Claude Juncker domani incontrerà in bilaterale la premier britannica Theresa May. Lo stesso Juncker dice: non dobbiamo avere fretta, dopotutto Theresa May è la prima volta che viene ai vertici. Insomma, si prende tempo per avviare una trattativa. Ma sentiamo dal corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano, il punto di questo vertice, appunto, sicuramente multitematico. È un vertice, quello di oggi e domani qui a Bruxelles, che doveva essere l'occasione di una riflessione strategica sui grandi temi del momento: l'immigrazione, il commercio, la Russia. L'attualità ha preso il sopravvento e i capi di Stato e di Governo saranno costretti a prendere di petto le diverse questioni. Al centro del dibattito sarà soprattutto la Russia e il suo intervento in Siria. Vi è la possibilità che i leader decidano di minacciare nuove misure sanzionatorie contro Mosca, questa volta non per il suo intervento in Ucraina, ma piuttosto per le sue responsabilità nella guerra civile in Siria. La città di Aleppo sta subendo sanguinosi bombardamenti. I 28 sono divisi sulla questione. L'Italia è contro, la Gran Bretagna a favore. Germania e Francia tentennano tra il desiderio di mostrare il pugno duro anche per motivi di politica interna e la consapevolezza che una escalation nei confronti di Mosca potrebbe essere più dannosa che altro. Sugli altri fronti aperti, i 28 vorranno evitare i nodi più controversi per non lasciare trasparire ulteriori divisioni, mentre l'accordo commerciale di libero scambio con il Canada è ostaggio per ora della mancata ratifica della regione belga della Vallonia. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La questione russa in primo piano, e quando dico questione russa mi riferisco naturalmente alla vicenda di Aleppo, ma non solamente. Sullo sfondo la grande questione ucraina, che si trascina faticosamente senza trovare una soluzione. Solo due giorni fa la morte in un attentato quantomeno sospetto di uno dei leader militari della parte filorussa nella regione di Donetsk, noto nel mondo, almeno nel mondo di chi segue questi temi, col nome di Motorola. Pensate, immaginate perché, per l'uso del telefono appunto. E è una situazione che non si smuove, che non sposta quello che è appunto il dialogo tra i sostenitori di Kiev occidentale ed europei e invece la posizione filorussa. Anche di questo ha parlato questa mattina Romano Prodi, ex presidente Commissione Europea, ora presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli. Ha incontrato la nostra Laura Bettini in occasione di un forum eurasiatico in corso a Verona. Sentiamolo. Ripeto, senza entrare negli aspetti particolari dei problemi che ci stanno dividendo, come l'Ucraina, soprattutto l'Ucraina, ma anche il caso siriano. Però, ripeto, la rottura completa è una roba da vecchi tempi, senza voli pindarici, senza illusioni, ma dopo aver parlato, cercato di vedere dati, dico, ma insomma, c'è secondo me lo spazio e la possibilità di ricominciare a dialogare direttamente su questi problemi, senza essere guidati da interessi soltanto esterni. Bene, con questo è tutto per il nostro appuntamento. Adesso naturalmente il tempo, il nostro spazio sportivo, una giornata particolarmente ricca, perché sentirete oggi proprio il Palazzo del Sole 24 Ore, anche teatro e raccolta di alcuni davvero dei personaggi dello sport più interessanti. Quindi tutti convocati, a domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.